si tratta di la conclusione di un percorso che è iniziato molto tempo fa sul Bosco dei Prati di Caprara, insieme al percorso partecipativo Partecipati che organizzammo nel 2018, quando insieme a un gruppo di esperti cominciamo appunto a studiare il bosco. Quindi quello che presentiamo oggi, che ci è stato inviato alle istituzioni, è fondamentalmente il primo risultato di un lungo lavoro di almeno 2 anni di raccolta di dati, di informazioni tecniche scientifiche sul Bosco dei Prati di Caprara, che come comitato abbiamo voluto costruire per dare un supporto alla progettazione delle istituzioni che hanno un potere decisionale sul Bosco dei Prati di Caprara, per far crescere anche la consapevolezza del patrimonio comune che questo bosco urbano rappresenta per tutta la città. Questo percorso si inserisce anche all'interno di un accompagnamento che stiamo facendo sul percorso partecipativo organizzato dal comune sul piano urbanistico generale, il PUG, che si concluderà appunto a metà luglio e quindi sarà uno dei documenti che come comitato presenteremo al comune di Bologna e alla giunta perché appunto ne tenga conto nella pianificazione, seppur cambiata diciamo con la nuova legge regionale, sulla città, sull'area metropolitana, in particolare sul quadrante ovest. Questo dossier è proprio evidenzia i servizi ecosistemici, cioè quei servizi che la natura spontaneamente eroga, offre gratuitamente ai cittadini, non solamente del cittadino del quadrante ovest, ma l'area dei Prati di Caprara è talmente grande, talmente evoluta, talmente importante da un punto di vista vegetazionale, della biodiversità, che dà dei riscontri e dei servizi per tutta l'area urbana di Bologna. Questo dossier è composto da dei contributi specialistici di 23 studiosi e ricercatori. Non ci siamo focalizzati solamente sulla parte, anche se ovviamente è una delle parti più importanti, è il nucleo centrale del dossier, la biodiversità del luogo, ma anche su tutti gli aspetti sociologici, storici e poi anche aspetti antropologici e ovviamente di regolazione climatica. Infatti i servizi ecosistemici che vengono elencati nel dossier e vengono trattati sono quelli ovviamente di conservazione della biodiversità, di regolazione dell'aria, della regolazione della qualità dell'aria e del sequestro di carbonio, di regolazione climatica e ovviamente anche tutti quei servizi che vi dicevo della sfera sociale, estetico-paesaggistica, ricreativa e storico-culturale. Qualche numero di questi rilievi e studi che sono stati fatti praticamente da 3 anni a questa parte sono 27 ettari di ecosistema forestale. Lo chiamerei ecosistema forestale perché ovviamente la parte dominante è formata dal bosco. Però ci sono una serie di altri ambienti, in ecologia si chiamano, viene denominato mosaico paesaggistico, costituito da aree arbustive, aree prative, che completano la biodiversità del luogo. Infatti delle aree arbustive sono molto importanti per esempio per l'avifauna. In più, tra l'altro, ai Prati di Caprara ci sono quasi 18 ettari di bosco maturo e quindi anche molto bello anche proprio da essere fruito, da passeggiarci in mezzo, perché è molto piacevole anche paesaggisticamente. Altre aree invece più dense, più giovani, che sono in libera evoluzione. 40 anni a fasi alterne almeno di libera evoluzione che hanno portato alla presenza di circa, in questi rilievi preliminari, 200 specie di flora, 60 specie di funghi, sono particolarmente importanti perché devono essere raffrontati con i numeri di diversità di specie dell'area urbana e collinare bolognese. Sono numeri comparabili e molto significativi anche rispetto alla flora di questi ambienti conterni. 61 specie di uccelli sono state contate, addirittura anche il falco pellegrino, specie tra l'altro appunto di interesse conservazionistico, di direttiva comunitaria. 40 farfalle, solamente parlando dei lepidotteri diurni, non sono stati fatti rilievi di notte. Specie di erpetofauna, quindi anfibi e rettili. 720 circa chili di NO2 assorbite all'anno, che è molto importante e molto dannoso per la salute umana. Polveri sottili, da 900 a 1800 chili di polveri sottili che sono catturabili all'anno da questo bosco, e tonnellate di CO2 stoccate. Pensate appunto, vari rilievi anche di ARPAE hanno dimostrato come l'area dei Prati di Caprara e tutta la quadrante ovest sia una delle più inquinate di Bologna. Quindi pensate, la stessa area senza questi 27 di bosco, molto importanti in questo periodo di cambiamenti climatici, che si parla spesso di adattamento della città ai cambiamenti climatici, della temperatura, delle isole di calore. Durante i periodi più caldi, la temperatura dei Prati di Caprara, dell'area forestale, è di 10 gradi inferiore addirittura rispetto alla adiacente area dello scalo ferroviario del Ravone, e almeno 4-5 gradi inferiori rispetto alla terza cintura muraria. Pensate, tutti quei quartieri, tutta quel quadrante ovest senza questo polmone. queste aree, non solamente in Europa, ma anche in Italia da almeno un decennio, in Europa da almeno 30-40 anni, proprio molto simili, aree militari, aree ex, aree ferroviarie abbandonate, diventano parte dei parchi e del verde cittadino. Ovviamente non convenzionale, come possono essere i giardini e Margherita, ma un verde complementare altrettanto, se non più importante, con differenti servizi rispetto all'altro verde.